per te, che te ne vai e vivrai la tua vita con lui. Fiori bianchi per te, sì, sono i miei, anche se il mio nome non c'è. Mai ci sarà nessun'altra nel mio cuore. Fiori bianchi per te, la verità tu lo sai, resterà in fondo a noi. Io non piango perché, pensando a te, piangerei una vita, lo sai. Mai ci sarà nessun'altra nel mio cuore. Fiori bianchi per te, fiori bianchi per te. Conosco te e so che tu indietro non torni. Hai voluto così, tremo per te e per il sì che mette fine ai miei giorni.